Capitolo 4. Lezione di letteratura. La fortuna ad un tratto volle arridere a Joe e le fece piovere un gruzzoletto. Non proprio una gran somma, ma se fosse stato un milione non credo che ne sarebbe stata più contenta. A intervalli di poche settimane, ella usava chiudersi nella sua stanza, indossava un costume apposito e si immergeva anima e corpo nel vortice, come diceva lei, buttando giù pagine su pagine del romanzo. Sentiva che non avrebbe avuto pace finché non fosse finito. Il costume apposito consisteva in un vecchio grembiule nero, convenientissimo per asciugarvi la penna senza riguardi, una cuffia nera dello stesso tessuto adorna di un vivace nastro rosso che raccoglieva i capelli spettinati quando Joe si disponeva ad affrontare il travaglio della creazione letteraria. Quella cuffia era un segnale per gli altri. Quando la vedevano in testa a Joe, si tenevano alla larga, limitandosi ad affacciarsi non troppo spesso sulla porta e a domandare con premura: «Arde la fiamma, Joe?» Talvolta non le facevano neanche la domanda. Con un'osservazione a distanza della cuffia si rendevano conto come stavano le cose. Se era calata e copriva la fronte, era segno che l'opera ferveva. Nei momenti eccitanti era messa sulle 23. Quando l'autrice era scoraggiata, la cuffia era per terra. Allora il disturbatore si ritirava in punta di piedi e finché non si vedeva il nastro rosso piantato gloriosamente sulla fronte del genio, nessuno ardiva parlargli. Genio veramente non si sentiva, no. Ma quando le venivano le idee, Joe ci si abbandonava tutta felice, senza curarsi della fame, delle preoccupazioni, del tempo cattivo, rifugiata in un beato mondo pieno di persone amiche, reali, care per lei quanto quelle in carne ed ossa. Non sentiva il sonno, non toccava cibo, le 24 ore non le bastavano per godere la felicità che le era concessa in quei momenti soltanto. I soli che valeva la pena di vivere, anche se non portavano altro frutto. L'afflato di vino le durava di solito una settimana o due, e da quella tempesta ella usciva affannata, cascante di sonno, intrattabile, oppure scoraggiata. Si stava riavendo da uno di tali accessi quando la persuasero ad accompagnare Miss Crocker a una conferenza. E la virtù ebbe il suo premio. Le balenò un'idea nuova. La conferenza faceva parte di un corso popolare e trattava delle piramidi d'Egitto, soggetto che a Joe pareva un po' strano per quel genere di auditorio, ma forse, pensò, rimedia a qualche piaga sociale o a un generale bisogno di rilevare le glorie dei faraoni, ad un pubblico la cui mente si occupa di solito del prezzo del carbone e della farina, e la cui vita ha da risolvere problemi ben più ardui che l'enigma della Sfinge. Arrivarono presto. Mentre Miss Crocker si preparava il lavoro di calza, Joe si divertì a esaminare le facce dei vicini. A sinistra c'erano due rispettabili signore con la fronte sporgente e cappelli adeguati che discutevano i diritti della donna e intanto lavoravano d'uncinetto. Più in là, una modesta coppia di innamorati che senza troppi riguardi si teneva per mano. Una truce zitellona che succhiava pastiglie di menta, togliendole da un sacchetto di carta, e un vecchio signore che si accingeva ad ascoltare, facendo un pisolino dietro un fazzoletto giallo. Dalla parte opposta avevano un giovanotto dall'aria studiosa che si immergeva nella lettura di un giornale. Il giornale era illustrato e Joe lo esaminò con la coda dell'occhio. Chissà, pensò, quale storia avventurosa illustrava quella pagina. Con quell'indiano in tenuta di guerra che si precipita in un abisso con un lupo attaccato alla gola, mentre vicino a lui due messeri dai piedi incredibilmente piccoli e dagli occhi lunghi si battono a singolar tenzone e una donna scapigliata fugge lontana con la bocca spalancata in un grande strillo. Interrompendo la lettura per voltare la pagina, il giovanotto si accorse della vicina che guardava e da quel ragazzone espansivo che doveva essere le offerse il giornale, dicendole senza tanti preamboli: «Volete leggere? È un racconto molto bello». Joe accettò con un sorriso. Per quanto ormai signorina, essa si trovava sempre bene in compagnia dei maschi. La storia era un intreccio complicato d'amore, di mistero, di sangue. Apparteneva a quel genere di letteratura in cui le passioni si scatenano e si sfogano liberamente. E quando la vena inventiva dell'autore viene meno, ecco pronta una bella catastrofe che sgombra la scena portando via metà dei personaggi, lasciando i superstiti felici e contenti, la virtù trionfante e il vizio punito. Bella davvero, eh? Domandò ancora il giovanotto quando vide che gli occhi di Joe arrivavano in fondo alla pagina. Secondo me, roba come questa, e anche meglio, la saprebbe fare uno qualunque di noi se ci si provasse, osservò Joe, divertendosi all'ammirazione ingenua del ragazzo per quella letteratura da strapazzo. Mi riterrei ben fortunato se ne fossi capace io. Chi ha scritto questa storia si dice che viva della sua penna. Ebbene, guardate sotto il titolo. Mrs. Slang Northbury. La conoscete? Chiese Joe con subito interessamento. No. Ma leggo tutto ciò che trovo con la sua firma e conosco uno che è impiegato nella redazione di questo giornale. E voi dite che guadagna da vivere bene quella signora con racconti simili? Domandò Joe, osservando con rispetto crescente gli esclamativi fitti e i puntini che adornavano la pagina stampata. Lo credo. Ha indovinato ciò che piace al pubblico e lo scrive e la pagano bene. A questo punto la conferenza incominciò, ma Joe ne udì ben poco. Il professor Sands tirava avanti bravamente con Benzoni, Cheope, gli scarabei e i geroglifici, ma lei badava a stamparsi nella mente, senza farsi vedere, l'indirizzo del giornale, il quale bandiva un concorso con un premio di $100 per la migliore storia sensazionale, e Joe decise di prendervi parte. Quando la conferenza giunse alla fine e il pubblico si destava e si stirava, Joe si era già costruito uno stupendo castello in aria, non il primo che si è innalzato sulla carta, e si sprofondava nell'intreccio da combinare. Il duello doveva accadere prima della fuga degli innamorati o dopo il delitto. A casa non fece parola con nessuno del suo disegno, ma l'indomani si mise senz'altro all'opera, con una certa preoccupazione della mamma, come accadeva sempre quando vedeva divampare nella figliola la fiamma del genio. Quel genere Joe fino allora non lo aveva trattato mai, limitandosi alle avventure all'acqua di rose che le pubblicava L'Aquila. Qui molto le giovarono l'esperienza filodrammatica e l'esperienza delle letture fatte. Le fornirono i colpi di scena, le complicazioni di intreccio, lo stile e i costumi. La storia riuscì piena di disperazione, tutta la disperazione compatibile con un'esperienza limitata di certi sentimenti conturbanti. Il fatto accadeva a Lisbona e un bel terremoto le fornì uno scioglimento appropriato e di grande effetto. Il manoscritto venne spedito in segreto, accompagnato da un biglietto in cui l'autrice dichiarava che, anche non ottenendo il premio, non osava sperare tanto, si accontentava di qualunque retribuzione si ritenesse opportuno di assegnarle. 6 settimane sono lunghe per chi aspetta e sono ancora più lunghe per una ragazza che ha da mantenere un segreto. Ma Joe riuscì in ambedue le cose. Già cominciava ad abbandonare ogni speranza, anche quella di rivedere il suo manoscritto, quando le giunse una lettera che per poco non le tolse il respiro. La aperse con le mani tremanti e dalle pieghe del foglio le cadde in grembo un assegno bancario, $100. Per un momento stette a guardarlo, affascinata come l'uccelletto davanti alla serpe. Al fine si fece coraggio e lesse. E la lettura le riempì gli occhi di lacrime. Se quel signore cortesissimo che aveva scritto avesse appena immaginato quanta felicità dava una creatura umana, credo che avrebbe dedicato tutte le sue ore disponibili, se ne aveva, all'occupazione di scrivere lettere come quella, che a Joe fece un piacere ancora più grande che il denaro perché le dava coraggio. Che gioia, dopo anni di sforzi, accorgersi che si è capace di fare qualcosa, sia pure soltanto un racconto sensazionale. Non ci fu ragazza al mondo più fiera di Joe quando, ricompostasi dopo la lieta sorpresa, andò a elettrizzare la famiglia tenendo in una mano la lettera e l'assegno nell'altra e spiegando di avere avuto il premio. Fu una gran festa, naturalmente, e un'altra fu quando lessero il racconto sul giornale. Ne furono ammiratissimi. Il signor March si limitò a lodare la lingua e a riconoscere che il racconto era fresco, vivace ed emozionante, ma crollando il capo concluse, senza peli sulla lingua: Tu puoi fare di meglio, Joe. Devi mirare più in alto e non curarti del guadagno. Per me invece è quello che conta di più, disse Amy, e guardando con occhio rispettoso il magico rettangolo di carta domandò: Cosa ne farai di tanto denaro? Voglio mandare Beth con la mamma al mare per un mese o due, rispose pronta Jo. Magnifica idea, ma non posso andarci io. Sarebbe egoismo, disse Beth, dopo aver battuto le mani e aspirato l'aria con voluttà, come fosse già quella fresca dell'oceano. E alle ultime parole la sua mano faceva il gesto di respingere l'assegno che la sorella le sventolava davanti agli occhi. Ci andrai, cara. Mi sono messa in testa di mandartici. Per questo ho lottato. E questo mi ha portato fortuna. Quando penso a me soltanto, non concludo nulla di buono. Vedi bene dunque che lavorare per te è una gioia. E poi anche la mamma ha bisogno di cambiare aria e non ti vorrà lasciare. Dovete andare tutte e due. Come sarà bello quando ritornerai tonda, grassa e colorita. Ecco la cura infallibile e prodigiosa del dottor Joe. E al mare andarono, madre e figlia, dopo lunghe discussioni. Vero è che Beth non ritornò grassa e rosea quanto avrebbe dovuto, ma un gran miglioramento lo ebbe. Anche la signora March dichiarò di sentirsi più giovane di 10 anni, sicché Jo fu molto soddisfatta dell'impiego del denaro guadagnato e si rimise all'opera con slancio per guadagnare qualche altro di quegli assegni provvidenziali. E in un anno furono parecchi. Sentiva di essere una colonna della casa. Per magica virtù della sua penna, le sciocchezzuole si traducevano in benessere per tutti. La figlia del duca servì a pagare un conto del macellaio. La mano del fantasma procurò un tappeto nuovo per il salotto. La maledizione dei Coventry fu in realtà una benedizione perché si convertì in acquisti dal droghiere e investiti per la famiglia March. Certo, la ricchezza è cosa molto desiderabile, ma anche la povertà ha il suo lato bello. Uno dei suoi meriti è la soddisfazione sincera che essa dà quando si lavora forte con le braccia e con la testa. All'ispirazione che viene sotto lo stimolo della necessità sono dovute per metà le gioie più vere della vita, le più sane, le più utili, le più sagge. E adesso che aveva tali soddisfazioni, Jo non invidiava più le figlie dei ricchi, fiera di bastare a se stessa senza domandare un soldo a nessuno. I suoi racconti non erano molto notati, ma si collocavano. E incoraggiata da questo fatto, Jo volle tentare un colpo audace che le desse la fama e la fortuna. Dopo aver copiato il romanzo per la quarta volta, lo lesse a tutti gli amici più intimi e, tremando, lo offerse a 3 editori. Si dichiararono disposti a prenderlo, ma a condizione che lo riducesse di un terzo, quel terzo che corrispondeva proprio alle parti che a lei piacevano di più. Adesso o ne faccio un rotolo e torno a gettarlo nella cucina di lamiera a far la muffa, oppure lo stampo a spese mie, o lo riduco come vogliono gli editori, accettando quello che mi danno. La gloria è una gran cosa, anche per la soddisfazione della famiglia, ma il denaro è meglio. Sentiamo cosa ne pensano a casa tutti quanti, interessa anche a loro. Il consiglio del babbo fu: non guastarlo il tuo lavoro, figliuola. Vale più di quanto credi ed è condotto bene, lascialo com'è. Il consiglio corrispondeva a ciò che faceva lui stesso. Il frutto delle sue fatiche lo teneva pazientemente a dormire da 30 anni. E ancora, quantunque fosse ben maturo, non aveva nessuna fretta di metterlo fuori. La signora Marci invece disse: sarebbe più conveniente che Joe affrontasse l'esperimento subito, senza aspettare. Per i lavori di questo genere la critica è la prova migliore. Le rivelerà forse pregi e difetti che noi non sospettiamo nemmeno. Noi non possiamo essere imparziali, ma la lode o la critica degli estranei le riuscirà utile anche se il guadagno sarà poco. Sicuro, disse Joe corrugando la fronte. È così, a forza di rivedere, copiare, ritoccare, non so più cosa pensarne. È bello? È brutto? È così così? Mi gioverà molto il giudizio obiettivo e imparziale della gente. E Meg? Però non dovresti tagliare neanche una parola, rovineresti tutto. Il bello del tuo lavoro è più nella psicologia che nell'azione. Se non dimostri le ragioni man mano che racconti i fatti, la narrazione rimane oscura, confusa. Meg era fermamente convinta che il lavoro della sorella fosse il miglior romanzo che si potesse scrivere. Ma vedi qui, il signor Allen dice: tagliate via le spiegazioni, siate breve, drammatica. Lasciate che i motivi psicologici si vedano dallo svolgimento dei fatti, osservò Joe porgendole un biglietto dell'editore Allen. E Amy, che vedeva la cosa esclusivamente dal lato pratico, e tu fa come dice lui, e lui lo sa bene se una cosa si vende o no. Noi non ne sappiamo nulla. Fanne un romanzo per il gran pubblico e tirane fuori più che puoi. Col tempo, quando ti sarai fatto un nome, ti potrai permettere le digressioni e i personaggi filosofici o metafisici. Ho capito, disse ridendo Joe, ma se i miei personaggi sono complicati, la colpa non è mia. Io di certe cose non so niente, se non ciò che ne ho sentito dal babbo qualche volta. Se è passato dentro al racconto, tanto meglio per me. Ma tu, Beth, cosa ne dici? Io lo vorrei vedere stampato subito, rispose Beth sorridendo, e non aggiunse altro. Ma in quel subito ci mise, non volendo, tanta forza e lo accompagnò con uno sguardo pieno di tanta giovanile ingenuità che Joe ebbe un brivido di paura. Non sapeva di che e decise di farla finita e correre il rischio subito. Con spartana fermezza, la giovane autrice mise sulla tavola operatoria il suo parto letterario e tagliò senza pietà. Per accontentare tutti, diede retta un po' a tutti, e così, come fecero con l'asino il vecchio contadino della favola e il figlio, non accontentò nessuno. Al babbo piaceva quel poco di tinta psicologica che Joe ci aveva messo senza volerlo, e Joe ve la lasciò, sebbene avesse in proposito i suoi bravi dubbi. La mamma trovava che forse c'era qualche descrizione di troppo, perciò sparirono quasi tutte, e con esse qualche anello necessario alla catena dei fatti. A Meg piaceva la parte tragica, e Joe per accontentarla calcò la mano sulla catastrofe. Amy non approvava l'umorismo, e Joe, con le migliori intenzioni del mondo, soppresse qualche episodio divertente che avrebbe sollevato un po' il tono cupo del racconto. Infine, per completare il guasto, accorciò il tutto di un terzo e, piena di fiducia, spedì il povero romanzo, mutilato e tartassato, ad affrontare il suo destino, per il mondo distratto da ben altri pensieri. Eppure glielo stamparono e ne ricavò $300 e anche lodi e critiche finché ne volle, anzi molto di più, delle une e delle altre, di quanto si aspettava, tanto che per qualche tempo non riuscì a raccapezzarcisi. Vedi, mamma, tu mi dicevi che le critiche mi avrebbero giovato, ma com'è possibile? Con tutte queste contraddizioni, come faccio io a decidere se ho scritto un libro che promette bene o se ho violato tutti e 10 i comandamenti? Diceva la povera Jo, voltando e rivoltando il mucchio dei ritagli che la riempivano di gioia e di orgoglio e un momento dopo la facevano inquietare e disperare. Senti questo, un bellissimo libro, tutto verità, bellezza, profondità, dolce, puro, sano. E poi, con uno sforzo, la tesi del romanzo è sbagliata, immaginazioni morbose, zavorra di fantasie spiritiche, personaggi falsi e innaturali. E nota che io di tesi non ne ho avuta nessuna. Allo spiritismo non credo e i personaggi li ho presi dalla vita. Come può avere ragione questo secondo messere? Un altro dice: è uno dei migliori romanzi usciti in America in questi ultimi anni. Questo non lo credo affatto io. E un altro: opera originale, piena di potenza e di sentimento, ma libro pericoloso. Facci un po' a capire. Uno mi prende in giro, un altro mi fa delle lodi eccessive. Quasi tutti ce l'hanno con la tesi profonda che ho voluto sostenere. E io ho scritto soltanto per il gusto di scrivere e per il denaro. Mi pento di non averlo stampato com'era. O magari di averlo stampato. Non mi vuole andar giù quel vedermi giudicare così a vanvera. Conforto e consiglio non le mancarono, però, dalla famiglia e dagli amici. Ma Jo era troppo sensibile, troppo piena di amor proprio. Ed era ben duro per lei, con tanta intenzione di far bene, aver fatto, pareva, tanto male. Ma in complesso l'esperimento le fu utile, perché le persone il cui giudizio aveva qualche valore le fecero di quelle critiche che per un autore sono il migliore insegnamento. Passata l'amarezza dei primi tempi, Joe arrivò anche a riderne del suo povero libro, senza per questo perdere la fiducia che aveva in esso, e si ritrovò più esperta e più forte dopo le strigliature della critica. Keats ne morì, ma lui era un genio, disse bravamente, e tutto sommato chi ride sono io, con quei signori che trovano inverosimili e assurde le parti che ho preso dal vero, mentre trovano deliziosamente naturali e piene di verità le scene scritte di maniera, dettate dal mio cervello. E questo mi conforta. Quando sarò pronta per ricominciare, ricomincerò da capo. Capitolo 5. Esperienze domestiche. Al pari di quasi tutte le giovani padrone di casa, Meg iniziò la vita coniugale con la ferma risoluzione di essere una massaia modello. Il suo John in casa doveva trovarci il paradiso, vederci sempre un volto sorridente, essere nutrito tutti i giorni da buon gustaio, non avere mai un bottone mancante. Meg ci si mise con tanto amore, con tanta energia, con tanta letizia che doveva riuscirci anche troppo bene, ad onta di vari ostacoli. Troppa grazia. Non fu un paradiso tranquillo. La sposina si dava da fare, si preoccupava troppo per rendere contento lo sposo. Si agitava come una vera Marta, piena di pensieri, di preoccupazioni, e ben presto si sentì troppo stanca anche soltanto per sorridere. Dopo una cura prolungata di cose prelibate, a John venne la dispepsia e quell'ingrato reclamò un vitto più casalingo. Quanto ai bottoni, Meg imparò ben presto a chiedersi dove diamine andavano a finire, a proclamare, crollando il capo, che gli uomini sono disordinati, a minacciare di lasciargli riattaccare i bottoni da sé. Avrebbe veduto allora lui se il suo lavoro resisteva meglio di quello di lei agli strappi delle dita impazienti e inesperte. Ma erano felici, anche dopo aver constatato che non si vive solo di amore. John non trovò Meg meno bella anche a guardarla attraverso i vapori della caffettiera domestica, e non parve a Meg che il saluto di John tutte le mattine, quando andava al lavoro, fosse meno poetico, se dopo averla baciata, lei domandava con tenerezza: per pranzo vitello o montone, cara? La loro casetta non era più una pergola fiorita, ma una vera casa, e ambedue si accorsero presto che era meglio. Sulle prime la presero come uno scherzo e ci si divertirono come due monelli. Poi John si mise di proposito al lavoro, perché si sentiva sulle spalle il carico di una famiglia, e Meg mise da parte le sciarpe di Chambéry, si infilò il grembiulone e si pose al lavoro con più energia, come si è detto, che discrezione. Finché durò la mania culinaria, ella sgobbò sul ricettario della Cornelius come sopra un libro di esercizi di matematica, lavorando ai problemi più complicati con pazienza e attenzione. Qualche volta la famiglia March era invitata, tutta o in parte per aiutare a consumare un pranzo che era riuscito troppo abbondante, oltre che squisito. Qualche altra volta Lotti era inviata in segreto a far sparire i risultati di un fiasco che non si doveva sapere e che finiva negli stomaci di struzzo dei piccoli Hummel. Poi un esame serale di John al libro dei conti calmava per qualche tempo gli entusiasmi culinari. Cominciava allora un eccesso di frugalità e il povero figliuolo doveva fare una cura di pranzi, di polpette e di caffè riscaldato. Prova che egli sopportava con lodevole fortezza. Prima di trovare laurea via di mezzo, Meg ebbe modo di arricchire la propria esperienza domestica di una prova dalla quale una giovane coppia raramente si salva: una lite in famiglia. Animata dal desiderio, comune a tutte le massaie, di avere la dispensa ben fornita di conserve fatte in casa, Meg si preparò a fare la gelatina di Ribes. John fu pregato di comperare e far portare a casa una dozzina circa di vasetti e una provvista extra di zucchero. Il Ribes era al punto giusto di maturazione e bisognava far presto. Fermamente convinto che sua moglie fosse all'altezza di qualunque impresa e ci teneva a farlo vedere, mise una cura particolare nell'accontentarla, in modo che il loro raccolto di ribes fosse bellamente conservato per l'inverno. I vasetti furono 4 dozzine e graziosi, lo zucchero mezzo barile. Mandò anche un ragazzo per la raccolta del ribes. Coi bei capelli chiusi in una cuffietta, le braccia nude fino ai gomiti e un elegante grembiule a scacchi, civettuolo malgrado la bavarola, la giovane massaia si mise all'opera. Era sicura della riuscita. Non l'aveva visto fare tante volte da Anna quel lavoro? La fila dei vasetti sulle prime le fece un po' impressione, ma a John piaceva tanto la gelatina. Allineati sulla mensola più alta, avrebbero fatto una figura magnifica. Dunque Meg decise di riempirli tutti e passò un'intera giornata a scegliere, a cuocere, a passare all'ostaccio il ribes. Insomma, si diede da fare un mondo e meglio che poté. Ricorse per consiglio a Mrs. Cornelius. Si lambicò il cervello per ricordarsi quale poteva aver dimenticato di tutte le operazioni viste fare da Anna. Tornò a cuocere da capo, a mettere altro zucchero, a passare di nuovo, ma quella terribile gelatina non si voleva rapprendere. Le venne la tentazione di fare un salto a casa senza neanche togliersi il grembiule e pregare la mamma di venire a darle una mano, Ma con John avevano stabilito di non andare mai a seccare gli altri con le loro difficoltà private, coi loro esperimenti, con le loro eventuali dispute. A parlare di dispute era venuto loro da ridere, supposizione buffa, inverosimile. E la risoluzione l'avevano mantenuta fino a quel giorno, facendo senza dell'aiuto altrui ogni volta che potevano. Del resto era anche il consiglio della mamma. Sicché Meg, per tutta quella lunga giornata d'estate, fu alle prese con la gelatina ribelle e alle 5 di sera si abbandonò sopra una sedia in mezzo alla cucina, tutta sottosopra, si torse le mani e si mise a piangere forte. Fin dai primi giorni, nel fervore della nuova esistenza, ella aveva formulato ripetutamente un voto. Mio marito dovrà poter invitare un amico ogni volta che vorrà. Io sarò sempre pronta. Non ci sarà sorpresa né protesta né disturbo. La casa sempre in ordine, la moglie di buon umore e il pranzo ben fatto. John, mio caro, non mi chiedere mai il permesso. Invita chi vuoi e troverà buona accoglienza. Bellissimo. Sentirla parlare così era per John motivo d'orgoglio. Che bella cosa avere una moglie così superiore. Invitati ne avevano di tanto in tanto, ma per un motivo o per l'altro non erano mai inattesi, sicché a Meg era sempre mancata l'occasione di fare onore alla sua promessa in condizioni difficili. Così vanno le cose in questa valle di lacrime. Qualche volta ci si mette la fatalità, e allora non resta che rimanere a bocca aperta, deplorare il contrattempo e cavarsela come si può. John si era completamente scordato della gelatina di Ribes, altrimenti sarebbe stato davvero imperdonabile scegliere fra tutti i giorni dell'anno proprio quello lì per invitare un amico e condurlo a pranzo senza preavviso. Si rallegrò anzi con se stesso che quel giorno ci fosse un pranzo particolarmente buono e sicuro di trovarlo pronto al minuto preciso, pregustava già la soddisfazione e il bell'effetto. Si aspettava anche di vedersi correre incontro la sua bella mogliettina. E così accompagnò a casa l'amico con tutto l'orgoglio di un giovane padrone di casa. Ma questo mondaccio è pieno di delusioni e John se ne accorse quando giunse al nido. La porta di strada, che per solito a quell'ora si apriva accogliente, era chiusa col catenaccio dall'interno e i gradini erano ancora infangati dal giorno prima. Chiuse le finestre del salotto, tirate le tendine. Niente quadretto della giovane sposa a cucire sotto il portico, tutta in bianco con un fiore nei capelli. Tantomeno la vide sulla porta a salutare con gli occhi sorridenti, deliziosamente timida, il marito e l'ospite. Niente di tutto ciò. Non si vedeva anima viva all'infuori del ragazzo insanguinato dal succo del ribes che s'era addormentato sotto le piante. Temo che sia successo qualche incidente. Senti, Scott, tu ora fai 2 passi in giardino e io vado a cercare la padrona di casa. Ma John non era tranquillo. Quel deserto, quel silenzio lo preoccupavano. Fece il giro intorno alla casa, fiutando nell'aria l'odore forte dello zucchero bruciato. E Scott, appresso, con una faccia. Ma quando John entrò in casa, Scott si trattenne e rimase qualche passo indietro. Non vedeva nulla, ma udiva e capiva, e con la malignità dello scapolo egoista se la godeva un mondo. In cucina tutto era confusione, desolazione. Un'edizione della gelatina era stata ripetutamente travasata da un barattolo all'altro, un'altra si era sparsa in terra, una terza bruciava allegramente sul fuoco. Lotti, con la sua calma teutonica, mangiava tranquillamente pane e ribes crudo, perché la gelatina si ostinava a mantenersi ancora allo stato liquido. Davanti a tanta rovina, la signora Brooke singhiozzava con la faccia nel grembiule alzato fra le mani. «Cos'è successo, bimba?» esclamò John accorrendo. Ebbe subito la visione di manine coperte di scottature, di notizie brutte, e di fuori c'era l'amico che aspettava. «Oh, John, quanto sono stanca, che caldo e che rabbia e che dispiacere! È tutt'oggi che ci lavoro, non ne posso più, sono sfinita!» Di grazia, aiutami se non vuoi vedermi morire. E la povera padroncina di casa gli cadde esausta sul petto. Fu un saluto dolcissimo anche in senso letterale, perché il grembiule era cosparso di marmellata non meno del pavimento. Cos'è stato, cara? Cosa mai è accaduto? Le chiese John preoccupato, ma baciando con tenerezza la cuffietta che era tutta di traverso. Già, singhiozzava Meg disperata. Dimmelo subito. Non piangere, tutto sopporto fuorché vederti piangere. Raccontami su, coraggio. La gelatina non vorrà prendere. E io non so come fare. John Brooke quella volta rise come poi non osò ridere mai più. Sorrise anche Scott, di fuori, nell'udire la sua esplosione di ilarità. Ma per Meg fu l'ultimo colpo. È tutto qui il male. Getta ogni cosa dalla finestra e non ci pensare più alla gelatina. Te ne compero dei litri se la vuoi, ma per l'amor del cielo non ti far venire gli isterismi. Di fuori c'è Jack Scott, l'ho invitato a pranzo. Ma John non poté dir altro. Meg lo respinse da sé, si lasciò cadere sopra una sedia, torcendosi le mani con un gesto tragico, esclamando con un tono di indignazione, di rimprovero e di disperazione: «Un invitato? Con la casa in queste condizioni? John Brooke, come hai potuto?» «Zitta, è qui, in giardino. Questa maledetta gelatina me l'ero scordata, ma adesso non c'è rimedio», disse John guardandosi intorno preoccupato. Avresti dovuto mandarmi ad avvertire, o avvertirmi tu stesso stamattina e ricordarti che po' di lavoro avevo, continuò Meg arrabbiata. Anche una tortorella sa beccare quando si arrabbia. Questa mattina non lo sapevo, e per mandarti ad avvisare non c'era tempo. L'ho incontrato quando tornavo dall'ufficio. Non mi è venuto affatto in mente di chiederti il permesso. Tu mi hai detto sempre che potevo invitare chi volevo. Non ho mai approfittato del tuo permesso finora e voglio che mi taglino la testa se lo faccio un'altra volta, concluse John con aria seccatissima. Spero bene di no. Portatelo via subito, non lo voglio vedere, non lo posso vedere. Il pranzo non è pronto. Ci mancava questo. E dov'è la carne? E la verdura che ti ho mandato? E il pudding che avevo detto di fare? Esclamò John e corse a guardare nella credenza. Non ho avuto il tempo di cucinare niente. Avevo deciso di pranzare con te dalla mamma, mi dispiace, ma avevo tanto da fare. E Meg si rimise a piangere. John era un uomo buono e mite, ma era un uomo. E, dopo una giornata lunga e faticosa, tornare a casa stanco, affamato e pieno di piacevoli aspettative e trovare invece il caos, la tavola non apparecchiata e la moglie in quelle condizioni, non era proprio la cosa che ci voleva per contribuire alla calma e alla dolcezza. Ad ogni modo si trattenne e la piccola raffica sarebbe passata se non gli fosse sfuggita una frase inopportuna. Siamo in un guaio, capisco, ma se tu ci metti un po' di buona volontà, c'è modo di rimediare, di stare allegri ugualmente. Non piangere, cara, soltanto muoviti un po' e mettici insieme qualcosa che tutto andrà bene. Dacci un po' di carne fredda, pane, formaggio. La gelatina no, non la vogliamo. Quell'allusione voleva essere uno scherzo. Ma fu la goccia che fece traboccare il vaso. Ricordarle il fiasco era una crudeltà inaudita per Meg. Con quell'accenno, quel po' di pazienza che le restava ancora scomparve. Se vuoi tirarti fuori dai guai, arrangiati come puoi. Io sono sfinita, non mi posso muovere. Per nessuno. Ma ti pare invitare la gente per offrire carne fredda, pane e formaggio? A casa mia? No. Portalo dalla mamma, il tuo Scott. Digli quello che vuoi, non lo voglio vedere io. Andate via, tutti e due, andate a ridere della gelatina finché volete. Non ho altro da offrirvi. Queste parole Meg le disse tutte d'un fiato e intanto si toglieva il grembiule e scappava a piangere in camera sua. Cosa fecero, rimasti soli, i due malcapitati? Meg non lo seppe mai. Ma Scott non ci fu condotto dalla mamma. Quando Meg scese, se ne erano andati alla chetichella, lasciando le tracce di una colazione improvvisata che la fece inorridire. Lotti le raccontò che avevano mangiato tanto e ridevano tanto e che il padrone le aveva detto che buttasse via tutta la gelatina e facesse sparire i barattoli. Meg aveva una gran voglia di correre dalla mamma e raccontarle tutto, ma la trattenne un senso di vergogna per la figura che ci faceva e di riguardo a John, che era cattivo, ma non lo doveva sapere nessuno. In fretta rimise un po' di ordine, si vestì con cura e aspettò che tornasse John. A chieder perdono, si intende. Ma disgraziatamente John non comparve. La pensava altrimenti lui. Con Scott aveva riso, scusando come poteva la mogliettina e facendo gli onori di casa con tanta cordialità, che l'amico si era trovato benissimo e aveva promesso di tornare. Ma, in fondo, John era in collera, per quanto non lo mostrasse. Meg lo aveva messo in un guaio, piantandolo poi in asso al momento più difficile. Bel modo di agire. Invita pure chi vuoi quando vuoi, E il giorno che la prendo in parola lei mi piglia a fuoco, mi si arrabbia, mi pianta nelle peste a farmi canzonare e a farmi compatire. Ah, per Diana, no! Mia moglie se lo deve mettere bene in testa. Queste cose gli pensava mentre era a tavola con l'amico e dentro di sé sbuffava. Ma ora, pian piano, gli passava. E tornando verso casa, dopo aver accompagnato Scott per un poco, era già in uno stato d'animo migliore. Povera piccola. Dopotutto la sua intenzione era di farmi piacere. Ha sbagliato, sì, ma è così giovane. Ci vuole pazienza. Bisogna insegnarle. Sperava che non fosse andata dalla madre. I discorsi lunghi non gli piacevano e certe cose, meno gente, ci metteva il becco. A questo pensiero John tornava a inquietarsi. Poi gli venne un timore. E se Meg, a forza di piangere, ne facesse una malattia? Allora allungava il passo, deciso a star calmo, a trattarla con bontà, ma anche con fermezza. Sicuro, fermezza. Lo doveva capire l'errore commesso, il suo dovere come moglie. Contemporaneamente anche Meg si proponeva di essere calma e gentile, ma ferma, e mostrargli qual era il suo dovere al marito. A momenti gli veniva una gran tentazione di cogliergli incontro, di chiedergli perdono, di farsi consolare con un bacio. Tutto sarebbe finito così. Ma naturalmente non si mosse, e quando John entrò si mise a canticchiare a bocca chiusa come se nulla fosse, come una donna che se ne stesse a ricamare o a cucire tranquilla nel suo boudoir. John rimase male. Non era la niobe tenera e addolorata che si aspettava di trovare, ma ad ogni modo la sua dignità di uomo richiedeva che la prima a scusarsi fosse lei, perciò andò a sedersi comodamente sul sofà e fece questa osservazione importante. Domani è luna nuova. Mi fa piacere. La risposta non era molto incoraggiante né atta a ricondurre la pace. Qualche altra osservazione di interesse molto vago tentò il signor Brooke. La conversazione languì. John si avvicinò a una finestra, aperse il giornale, vi si avvolse dentro, per così dire. Meg andò all'altra finestra e si rimise a cucire con impegno. Quasi che quelle rosette che applicava alle pianelle risolvessero un problema di importanza vitale. Nessuno dei due parlava, calmi e inflessibili ambedue, e dentro un malessere, un rimorso, un rodio. Ah, pensava Meg, la vita coniugale è dura, richiede una grande pazienza e un grande amore. Me lo dice la mamma. Col ricordo della mamma le tornarono in mente tanti consigli che le aveva dato altre volte, ai quali non aveva voluto credere, protestando che certe cose non erano possibili. John è buono, ma i suoi difettucci li ha. Bisogna che tu li conosca e che impari a sopportarli ricordandoti dei tuoi. È un uomo risoluto, ma non diventerà mai ostinato se tu gli parlerai con le buone, con la ragione, senza prenderlo di fronte, senza impazienze. È preciso e vuole sempre la verità. Non è un difetto, ma tu trovi che è un po' pedante. Non bisogna ingannarlo mai, né con la parola né con l'apparenza, Meg. E così avrà in te tutta la fiducia che tu meriti e ti sosterrà sempre. Anche lui ha dei nervi, non come noi donne che con una vampata ci passa tutto. Se lui si monta, se scatta, non si calma subito né facilmente. Devi stare attenta, molto attenta a non farlo inquietare, perché la pace di casa, la vostra felicità, dipendono dal riguardo, dal rispetto che avrai per lui. Sorvegliati, sii sempre la prima a chiedere scusa quando lo sbaglio l'avete fatto tutti e due, e guardati dai puntigli, dai malintesi, dalle parole che si dicono senza pensarci troppo e recano poi amarezze e pentimenti. Questi consigli adesso tornavano in mente a Meg mentre cuciva nella luce del tramonto, specialmente l'ultimo. Era la prima volta che si bisticciavano un po' sul serio, e le parole che le erano sfuggite le sembravano, riflettendoci, sciocche e cattive. La sua rabbia puerile. Povero John, fagli trovare un'accoglienza simile. Le mancava il cuore. Con gli occhi gonfi di lacrime lo guardò, ma lui non se ne accorse. Allora Meg si alzò, depose il lavoro e decise: Voglio essere io la prima a dirgli perdonami. Ma intanto lui non volgeva il capo, non pareva accorgersi di niente. Meg attraversò lentamente la camera. L'orgoglio non voleva cedere. Si fermò alle sue spalle, vicinissima, e lui ancora non si voltava. Per un minuto le parve di non potersi risolvere, poi pensò: Questo è il principio. La mia parte voglio farla tutta per non avere rimorsi. Si chinò e lieve lieve lo baciò sulla fronte. Come era naturale, la cosa finì così. Il suo John le cadde in ginocchio davanti. Sono stato cattivo a ridere di quei barattoli, perdonami, cara, non ci riderò più. Ma ci rise ancora, invece, oh, se ci rise, e quante volte! E lei rideva con lui. Dichiaravano che in quei vasetti era conservata la gelatina meglio riuscita di casa Brooke. Quel giorno avevano messo in conserva la pace di famiglia. Qualche tempo dopo invitarono di nuovo Scott, con un po' di anticipo, e gli offersero un pranzetto coi fiocchi, senza battibecco per prima portata. Meg fu tanto allegra e simpatica, e tutto grazie a lei procedé così bene che Scott dichiarò a John che lo invidiava, e tornando a casa rifletté molto. È una vita ben triste, quella dello scapolo.